incontrati a Rafino, avevo lasciato alcune domande così per ripensare. Siccome avevamo accennato quello che è, secondo me, uno dei temi fondanti del pensiero di Tocco, che è la situazione della coscienza individuale e del fatto che la coscienza individuale per Tolstoi è la crescita della coscienza individuale, per Tolstoi è la base di ogni cambiamento, è essenziale di ogni cambiamento, anzi senza questa crescita non esiste nessun tipo di cambiamento. Io avevo lasciato come domanda il fatto che se era pensabile nella Russia degli zar, per un nobile russo che viveva in Ucraina in mezzo al niente, l'idea della crescita assoluta della coscienza, che sciolta da ogni vincolo, è assolutamente legata alle esperienze personali, dicevo, per noi questa cosa qui non è più pensabile, anche perché noi per esempio siamo convinti che la formazione e la crescita della coscienza avvengono solo nel rapporto con l'altro. Chiunque siano questi di alto. Ora, declinare la coscienza individuale con la coscienza condivisa, con una coscienza comunitaria, non è cosa da poco. Perché, per esempio, pone tutto il problema serio dell'educazione alla coscienza. Pone il problema della non violenza nell'educazione. Tolstoi radica quello che lui pensa della coscienza nella coscienza evangelica, nella legge evangelica. Questo non è così scontato. Però per Tolstoi è essenziale. Ora io non so se voi ci avete pensato a queste cose qui durante questo tempo. Io vi leggo una cosina, poi ne parleremo insieme. Vi leggo una cosina che è presa dagli scritti quel prezioso libricino bianco che avete a pagina 77, al punto di se ne potevano scegliere 50 altri, ma trovato questo. Leggiamo questo perché questo qui apre una prospettiva anche diversa. Dice: finché gli uomini saranno inetti a respingere le seduzioni della cupidigia, dell'ambizione, della vanità, del dominio, dell'abbrutimento, che generano il selvaggio e la corruzione, formeranno sempre una società di isolatori e di isolati, di impostori e di baloni. Perché ciò non accade, bisogna che ciascuno faccia uno sforzo morale sopra se stesso. Di ciò si ha coscienza. Ma si vuol giungere senza sforzo a una meta che solo per via dello sforzo può essere conquistata. Questa lettera è scritta a un gruppo di persone, se volete guardare la terza lettera, sul movimento sociale in Russia, e dà un giudizio molto negativo di questo movimento sociale, perché appunto dice: se non si propone questa crescita della coscienza, qualunque progetto sociale diventa una specie di ciarlare inutile e l'adeguarsi semplicemente ancora una volta al pensiero dei campi. Ci vuole uno sforzo per fissare il rapporto tra sé e il mondo e non discostarsi. Questa è una cosa buona. Così pure per determinare i rapporti verso gli altri in virtù della legge immutabile che impone di fare agli altri quello che si vuole facciano per noi. Ci vuole uno sforzo per reprimere le malvagie passioni che ci fanno cadere nell'altrui dominio, non essere né padroni né schiavi, non fingere o mentire sia per timore sia per tornaconto. Ci vuole finalmente uno sforzo per non allontanarsi dai precetti della suprema legge della coscienza. Ora, a parte il linguaggio, un po' demodetico, ma efficace, ci sono alcune cose in questo branettino che abbiamo letto, io ve le dico, poi possiamo discutere insieme. La prima: Tolstoi si sta rivolgendo a un movimento collettivo, al movimento socialista russo, non sta parlando con il suo amico vicino di casa, gli sta esponendo la sua teoria, sta parlando a un movimento sociale che ha messo in mente la rivoluzione, non la rivoluzione, questo poco importa, ma che voleva effettuare un cambiamento della società russa, ritenuta ingiusta, autoritaria, autocratica. Quindi il discorso è rivolto a una pluralità di persone, non russi. Anche se Tolstoi sottolinea con forza i processi singoli della crescita della coscienza. Ora, io su queste cose qui sono fatto due domande. La prima: è possibile in qualche modo, non so come, condividere questa scelta della crescita della coscienza e fare in modo che la crescita della coscienza non diventi solo un percorso singolo, ma diventi, senza sovrapporsi, un discorso condiviso? Questa è una domanda. Certo, questa è una delle mie piccole conclusioni, non è possibile sui grandi livelli. In 2000 questo però va a ridefinire, per esempio, l'immagine di comunità civile e di comunità religiosa. Cioè, la comunità civile e la comunità religiosa sono la comunità dove c'è questa condivisione profonda della coscienza, questa coscienza evangelica, dice Tolstoi, della legge immutabile che impone di fare agli altri quello che vogliamo sia fatto a noi. Non posso pensare di praticare questa cosa con 8.000 persone. Non è umano. Cioè, io la penso così, non è umano, non è sostenibile. Diventa una direttiva del partito. No, io sono già stato. Ma diventa una direttiva del partito, per la verità, in qualche modo. Vedi com'è più obbediente. Giulia, abitelo per te. Oggi si parla di identità molteplici, ne parlano i sociologi, ne parlano i psichiatri, qualche psicologo. Ma pensare a una comunità flessibile vuol dire pensare a una comunità dove l'appartenenza non è definita sull'esclusione, quindi voi non siete noi, ma sull'inclusione. Voi avete la possibilità di diventare noi. Però se tu vuoi uscire, puoi, senza cessare di far parte. Che è una comunità non violenta. Perché un'appartenenza definita e forte è violenta. Ora, io non so quanti di voi sono stati nel Partito Comunista. Nel Partito Comunista l'appartenenza era l'apostrofo, appartenenza scritto tutto minuscolo. Non si usciva di esperienza. Dal comunista nessuno non usciva di esperienza. Ma il problema è questa identità è una forma di violenza. È una forma di sopraffazione del pensiero, della coscienza. Pensare a delle comunità diverse. Io sto pensando, prima Marco diceva, bisogna fare delle comunità piccole. Per me non basta. Bisogna che siano fissi. Cioè che permettano l'osmosi, ma proprio l'entrare e l'uscire. Prima mi dicevano, facevano un'obiezione che non è un'obiezione da poco, dice, ma allora su chi puoi contare? Non lo so, però conti su chi c'è, non lo so, non ho idee, non ho mai neanche pensato come si possa fare, però non trovo un altro modo per coniugare in una maniera seria la coscienza individuale che deve essere sovrana, che non è una coscienza individuale qualunque, ma è quella formata in un certo modo, e quindi c'è tutto il problema della formazione e dell'educazione, e che in questo caso però esige quasi naturalmente di essere condivisa. Cioè esistono dei percorsi che facciano in modo che io, facciamo un percorso che è personale, ma che viene condiviso pur rimanendo del tutto personale, avendo l'idea. Potete intervenire in qualunque momento, perché io non è che ho molto, cioè io ci ho pensato parecchio, non è che sia arrivato a molte conclusioni, perché onestamente non lo so, perché non ho mai provato, dovrei provare. Io ci ho pensato a queste cose qui rispetto anche alla situazione anche delle comunità cristiane, delle parrocchie. Però non ci devono essere dei chiamati presupposti. Cioè devono esserci tanto un denominatore comune, una base comune. Oh, è su questo, condivisa. Che non è la linea del partito. Che non è il partito. No, però per Tolstoj era questo Vangelo, questo esatto. Cristiano, era un humus su cui coltivare. Seconda cosa, oggi lo dice proprio chiaramente, la coscienza si forma lì. Per Tolstoj, quei tempi di quello era molto caro. Magari adesso può essere qualcosa di diverso, di simile, di allargato, non so, comunque ci vuole una parte comune. Secondo, ci vogliono persone che amino essere libere, no? che non amino essere ingabbiati, perché spesso noi amiamo essere ingabbiati, non tutti, ma molti amiamo. Amiamo avere qualcuno che ci dica che occorre fare cose. Poi sul discorso di entrare e uscire, io trovo indispensabile, e in modo particolare uscire, perché se nessuno esce poi non si entra, cioè se nasce una comunità, una rete, un'aggregazione, deve essere dentro nel DNA di questa aggregazione il fatto che poi qualcuno esca da questa, perché altrimenti senza sentirsi un traditore. Senza sentirsi. Anche per te così facendo si recupera il 49%, perché di fronte a una comunità che è di 100 persone, se 51 sono d'accordo su una determinata linea, gli altri 49 non lo sono. Se possono uscire, possono anche rientrare, altrimenti rimarrebbe il 51%, che in una successiva comunità del 51%, a mano che si devono prendere delle decisioni in merito alla vita di questa comunità, poi c'è per uscire un solo, diventa una comunità. No. Però su queste cose qui ci sono due cose che vorrei dire. Primo, io penso che Tolstoj sarebbe rabbrividito a solo pensare alle percentuali. Cioè, le percentuali. Ah. Cioè nel senso che per lui era impensabile anche solo fondare un movimento, cioè lui diceva dobbiamo, e arrivo a quella cosa che mi ha colpito molto, che dicevo, quando tu fai una cosa, pratichi la giustizia, dici la verità, non lo fai per cambiare il mondo che succede, non lo fai per migliorare il mondo, per redimere l'umanità, per fare qualunque cosa, per instaurare quello che si chiamava una volta l'ordine nuovo. Lo fai perché è giusto, anche se non lo fa nessuno. Anche se non lo fa nessuno prima di te e se non lo fa nessuno dopo di te. Questa cosa qui ci vuole un po' mandare giù. Perché noi siamo abituati a pensare al cambiamento come un rivolgimento sociale, come comunque ad introdurre una serie di cose. E se mi è consentita una piccola digressione, via concedere, no? Se mi consentite questa cosa, mi ha aiutato l'Apocalisse in questo caso. L'Apocalisse non è la predizione del futuro, è la predizione del presente. E questa cosa è che chi conta è quello che stai facendo. Non il progetto per un dopodomani che non serve. Per me che vengo da una certa scuola, questa cosa qui era piuttosto importante da fare giù. Poi c'è un'altra, ve la dico, questa cosa che ho appena detto, secondo me è una cosa che noi neanche la pensiamo. Ci vuole uno sforzo per rimanere normale possibile, e questo non c'è da fare subito, che ci fanno cadere nell'altro dominio, e questo non me lo dice. Non essere né padrone né schiavo. Non fingere e non mentire, sia per timore, sia per tornaconto. Scusate se è troppo. Ci vuole finalmente uno sforzo per non allontanarsi dai precetti della suprema legge della pace. Io mi chiedo sempre dove è scritta questa seconda dice la coscienza. Nel senso, dentro, Tolstoj sostiene che questa cosa, la coscienza, appartiene nativamente all'uomo. E sono anch'io convinto di farlo. L'uomo per quello che è. Allora scriviamo da qualche parte in modo tale che tutti possano. Puoi scrivere la legge della coscienza? È tua la legge della coscienza. Non puoi scriverla? Una volta che hai scritto, è tu quella della coscienza. Come fai? Se scrivi la legge della coscienza non è più tu, è una cosa oggettiva, è un altro peccato, vedete che sono legge, ma no, nel senso che una volta che hai messo una legge esterna la coscienza non ti serve più, non ti serve più. È vero, sì, è vero, no, nel senso che secondo me perché c'è una coscienza universale, c'è una coscienza comune, è chiaro che c'è, io sono un estremo difensore di Tolstoj, quindi penso, veramente sono convinto che qualunque cambiamento venga un cambiamento di coscienza individuale, però c'è anche una condivisione, c'è anche una condivisione di queste coscienze, no? Ma non è una, non penso che la mia coscienza sia molto diversa dalla tua o da quella di Marco, da quella di Luca, da quella di Vito. C'è una. Eppure sì. Sì, ma sono molto diverse, sono un po' diverse. Sì, esatto, io però penso due cose. No, perché sennò qui si finisce sul terreno un po' pericoloso, perché sono diciamo una parola di scienza universale che adesso tutti qualche volta non è che c'è stato. No, sì, poi si comincia a fare il saluto, così non è bello. Il mio problema rispetto a questa cosa, allora, noi siamo qua e veniamo da percorsi diversi. Per la verità siamo qui anche per motivi diversi. Questo non esclude che ognuno di noi faccia il suo percorso di crescita personale, giusto? Di crescita della persona. Possiamo, quello che possiamo condividere sono, come dicevi tu, alcuni indirizzi di fondo. per esempio la non violenza, per esempio il fare gli altri quello che vogliamo sia fatto a noi. Tolstoj dice che bisognerebbe condividere anche una salda fede religiosa. Lasciamolo lui. No, diventa un po' difficilino, sono cambiati un po' i tempi. Allora, perché i tempi loro, i tempi di Tolstoj sono i tempi di adesso? No, assolutamente. L'hanno comunicato un po' di volte. Però il problema è che possiamo condividere quello. Però, nonostante che le nostre coscienze possano assomigliarsi, siamo tutti praticamente lo stesso genere umano, chi più chi meno, le coscienze sono individuali, sono legate alla mia storia, sono legate a dove sono vissuto, a quello che ho fatto, a quello che ho letto, a quello che ho condiviso, che è diverso dal tuo. Possiamo condividere i percorsi. Il problema del 51% non è sulla condivisione dei percorsi. Quando si fanno queste cose è sempre molto comodo definire un dentro e fuori. È vero? È bello definire un dentro e fuori. Dai. Perché è consonante, perché sai da che parte stai, perché funziona così, chiamano i buoni e i cattivi, quello vuoi, ma è dentro di te, sostanzialmente. In questo caso non funziona. Non funziona dentro e fuori. Senza un dentro e senza un fuori. Guarda che sensazionale. Io ci ho riflettuto su un po' e onestamente mi sono anche un po' spaventato. Perché nel momento in cui tu dici definisci un dentro e un fuori, definisci una verità, giusto? Che io ho anche un'altra, oppure tu ne hai un'altra, e poi non ci combattiamo con Dio perché siamo qui che al corso, siamo persone civili, abbiamo studiato tutte le cose. Però, coniugare la coscienza con la diversità non è proprio facilissimo, neanche molto intuitivo. E questo mi ha portato a un'altra riflessione, questa qui un po' più teorica, ma metti che vogliamo cambiare le cose, tu lo dici, ma le cose possiamo cambiare la nostra vita, perfetto. Metti che siamo in 10, cominciamo a cambiare. Avete presente come frustrante il tempo dell'attesa? Vedere che le cose non maturano. E che sempre i pezzi di niente. C'è queste pesche che sono circolando da 5 anni e durano come sassi, sono dure ancora come sassi. E non va avanti. Sì, ho detto, questo direi che non è un problema tuo, le cinque pesche hanno la loro coscienza, ci penseranno loro alla loro anima, convenzione di avere una nuova anima sua, buzza sua. Va bene, io posso anche accettare questa cosa. Per un po'. Non è facile. In quell'altra maniera di prima che dicevo, le pesche si facevano maturare e come pure le buttavi via. Però, cioè, riflettere su queste cose qui apre una serie di problemi che non sono facilissimi. Perché sai, finché io mi occupo di me, mi occupo di me, del mio primato, faccio una bella crescita morale, non faccio neanche quello che voglio sia fatto a me, però c'è quella terza parte di costruire me sempre, cioè, ci sono questi tre punti. Il primo punto è di non combattere il male col male, esatto. E funziona. Poi c'è il secondo punto di non fondare collaborazione. Non collaborazione. Con l'equalizzazione. Nel senso che è abbastanza chiaro, anche se poi metto le pratiche che è abbastanza difficile. Invece c'è il terzo punto che dice che qualunque, io devo essere consapevole, qualunque, tra virgolette, sfiga mi capita, dipende da me. Nel senso che cambiando io come coscienza, modifico quello che c'è intorno. Esatto. Che non è però, cioè capisci? Che mi sembra una cosa bella, se io cambio me stesso e faccio cambiare la realtà che c'è intorno. Sembra una cosa bella, bella profonda, bella importante. Anche una gran bala. Ma non è una bala, sono convinto no, sta attento una cosa. No. Io su queste cose sono d'accordo. In linea teorica mi appartiene. Cioè in linea teorica, devo ancora lavorare male. Nel senso che io cambio me stesso, cambio i rapporti che ho intorno, cambio le cose. Piuttosto io lo voglio bene, ma è la guida della mia coscienza. Ma non è così tutto. Perché gli altri hanno il loro percorso di coscienza. E non sono lì a aspettare me. E magari dei miei non me ne strafotte meno. No, è vero. Ti guardo e ti dico, bravo, vai avanti così e te io ad ora. Scusami, senza offesa. Sempre volendoci bene, per amor di Dio, però. È lì il problema. Il problema di questo. Perché poi, secondo me, tutto questo va elaborata, in questo caso serve la rete, c'è tutta una serie di cose. Però non è semplicissimo da affrontare, perché in una posizione non vuoi. Tu non vai a convincere gli altri. Chiaro, non fai propaganda. Tu proponi e vivi. Che è la posizione di Gesù con il giovane amico. Che gli ha detto, dimmi una strada per avere la vita eterna. Non è mica chiesto cosa hai mangiato stasera di cielo, perché è una cosa importante. Dimmi una strada per avere la vita eterna. Lui gli ha detto, sai, se lo comando me non uccide, non rubare, non vuole tuo padre la sua madre. E questo qui gli ha detto, ma io faccio la quando ero piccolo. E allora Gesù gli dice, vabbè, se vuoi essere perfetto vai, vieni a collocare il mio povero, poi vieni sì. Ci ha telefonato al commercialista e finito. Cioè, nel senso che Gesù non l'ha chiamato indietro. Non gli ha detto che vieni qua che facciamo una vendita rateale, scalata, così non devi. E gli ha detto, vieni qua tu. La seconda cosa, Giulia, la stessa cosa, non gli ha impedito di entrare. Non gli ha detto, ah no, tu ti stai andando l'anima, guarda che mi stai tradendo, sei una persona poco carina. Non gli ha detto così. Bene, giù, allora, perfetto. È questo il pezzo che per me non è. Perché? Giuda è vissuto per, faccio l'esempio di Giuda perché viene in mente, Giuda è vissuto per 3 anni con il Signore, alla fine non è il Signore era un violento, era carino, faceva anche la crescita della coscienza, non so se facesse lo yoga di sicuro. Di piccolo, assolutamente piccolo. Però non è semplice pensare a questa cosa, perché effettivamente nella crescita della coscienza c'è anche il fatto di poter essere smentito, di incontrare la contraddizione. Ma non dico la persecuzione che ti mettono in carcere, che ti processano, ma semplicemente un interesse. C'è una brava persona che vuole morire. Non mi interessa. Non è facile. chiedo perché ti ascolta, mi sembra. Perché sono sensibili. No. D'altra parte non ti ascolta nessuno, ma che proprio qualcuno si commuove ti ascolta. È vero che c'è una forza nella debolezza, ed è una forza che nessuno può fermare, ma è anche vero che è debolezza, e che i tempi si dilatano. Cioè, a fare la rivoluzione con il mitra ci mette un anno, a fare una rivoluzione, che poi non è questo l'obiettivo, facendo crescere le coscienze, ci mette 100 anni. Se ci riesci. Allora, elaborare 100 anni di ferma no, è proprio semplicissimo, eh? Cioè, non è che uno si riporta a casa e dice, ma sì, che bello, 100 anni, ma fatemi pensarci prima. Cioè, secondo me bisogna essere anche molto concreto. C'è un pezzo che si chiama, c'è un problema di sicurezza e soddisfazione, c'è un pezzo che è anche la gratificazione. Che noi dobbiamo superare, che dobbiamo assolutamente. Ma no, secondo me non va superato. Però il problema è che non sempre molto, cioè alcune cose non sono sempre molto gratificanti. Allora, sono gratificanti nella misura costante che stai facendo il tuo percorso, ma se ti guardi fuori dalla finestra, l'appagamento è un tantino più basso, giusto? Io dico la mia idea, o tu riesci a ignorare del tutto il mondo che hai attorno e andare avanti tranquillamente facendo le tue cose, fregandoti di qualunque cosa che succeda attorno, ma se non riesci a fare questa cosa, io non riesco molto bene a farla, beh, portare a contesi non è sempre facilissimo. Beh, portare il peso della giustizia. Dell'ingiustizia fatta e conclamata, che tu puoi anche denunciare, ma rimane lì. Secondo te è facile? Perché il mio problema rispetto a queste cose che non è di non fare, io anzi sono sto cominciando a fare una serie di cosine rispetto a queste cose qua, per me, a livello della mia crescita, della coscienza, 60 anni, meglio tardi che mai, però non posso negare quello che ho intorno. Infatti Tolstoi non è che il tratto che mi sa, o la Chiesa ortodossa, e questo è un nodo non semplice da sciogliere, almeno per me. Io stavo pensando che in effetti se io penso solo alla crescita della mia coscienza e al mio praticare il comandamento fondamentale, quello fra gli altri, io posso anche appagarmi. Stare bene con me stesso. Però non posso non vedere le sofferenze. Non posso pensare, vabbè, ma tanto io sto bene, gli altri prendono le mie onde negative, le mie onde positive, vedrai che una buona si tiene come è, una sniffata di coca è meno. Cioè, voglio dire, ma deve essere che comunque. No, secondo passo è quello di non collaborare con gli altri, che lo trovo una cosa quasi impossibile. No, ma non si può fare. A parte no, si può fare impossibile. Perché il male è tanto, no? Noi poi ci nascondiamo dietro un sacco di cose, ma il male è grosso. E poi c'è comunque questo discorso di denunciare il male. Comunque di dire la verità e di non mentire sia per timore che per questa cosa. Che deve essere fatto, no? Non è che questo. E questo che è un po' frustrante. Tu non hai idea, almeno questo vi dico, mi devo semplicemente contosto. Ma una delle cose che hanno l'ordine più basso è la verità. Nessuno vuole sentirsi dire la verità, soprattutto se la verità ti riguarda. Nessuno vuole sentirsi dire la verità, soprattutto se è su di me. Ma su Berlusconi, ma su me no. Su di me no. Non voglio sentire. Questo è il pezzo su cui bisogna crescere, perché capisci, il dire la verità mi sta anche bene, è farsela dire che voglio dire. È quel pezzo lì che non ci piace mica tanto, perché dirceva agli altri, no, siamo qua per quello, siamo dei soldi, ma è farsela dire. Perché noi possiamo permetterci di dire, facciamo una fatica molto alta a permettere di essere detti. Però il gesto più non violento che possiamo fare è quello lì, è l'affrontare la verità su noi stessi. E questo è però un percorso di una vita, ma non è semplicissimo. E per cui tu capisci che il tuo denunciare, il tuo fare così, segue la tua coscienza di quello che devi fare e va fatto. Devi affrontare il fatto che possa anche non ascoltarti nessuno. Non è molto facile. No, magari che ti viene facile se un uomo assolutamente libero, no, staccato da questo mondo, che cammini così. Io personalmente, preparati, mi sento ascolta, insomma, non è mica proprio una soddisfazione lì. Adesso. Insomma, Marco. Tu la vedi sempre nera. Io che sono ascolta, quanta gente ci fa spostare. Quindi non capita mica che sono quando invece le cose giuste nessuno lo ascolta. No, per non di dire. No, però la mia perplessità che ho già detto con l'altro è che per una comunità flessibile vengono a mancare gli spazi di condivisione, no? Ma tu non hai uno spazio reale dove condividere, cioè perché di volta in volta questo spazio può cambiare, questo luogo può cambiare, cioè, è questo che mi lascia un po'. Anche a me, però penso che in questo ci ho pensato, posso dare una cosa. Io penso che proprio la flessibilità di questa condivisione, il fatto che la condivisione legata ai percorsi più che ad altre cose rende disponibili gli spazi e rende anche disponibile il fatto di poter creare questi spazi, anche di volta in volta. Sì, poterli creare, poterli strutturare, senza legarci a uno schema. Vedete, io penso che noi detestiamo, diciamo, se io faccio sempre questo esempio, noi detestiamo, diciamo che vivere nel gregge è umiliante, non c'è niente di più bello. Se tu hai amici, mangi la pappa insieme, te lo procura il pastore, ti difende dai lupi, alla notte c'è un tetto sulla testa, il giorno dopo esci, il pastore ti guida, porta a mangiare la pappa buona, bellissimo. Bene, è affascinante ed è anche riposante. Un pallone giusto. Soprattutto perché è tosa. Ma ma guardate, perché tutti disprezzano questa di gregge. adesso. E piove e tira vento, te sei. Quelli sono detto che si brutti, che si contano sulle storie, bevono anche un grande bicchiere insieme, cantano, il cuore della montagna, te sei fuori. Perché lui deve essere libero. Che sarà anche carino, uno dice, mica no, provo a metterla a pioggia. E il giorno dopo deve procurarti di mangiare da solo, perché quegli altri ce l'hanno più. E quando c'è la neve glielo portano in scala, le belle palle di fieno. E invece fuori, nella neve, da solo, non c'è niente. A pensare che se stavi lì mangiando il tuo bel fieno. Che è la nostalgia degli ebrei che quando sono stati. Voi pensate, nel massimo. Mosè libera il popolo attraverso il Mar Rosso, che adesso ci sa se non c'era. Ma comunque attraverso il Mar Rosso vanno nella penisola del Sinai, non è un posto facile, perché il massimo della vita li porta lì e questi qui si lamentano, che ci ha portato a morire una terra che ti vuole i suoi figli. E di cosa? Pensate, erano schiavi in Egitto, costretti a lavorare per il faraone, dove hanno costruito le due città deposito del Pitto Meranses e li facevano fare i mattoni, gli stessi mattoni senza dargli la paglia a un certo punto. Li hanno uccisi i primogeniti, questi egiziani. Ma quando sono là nel deserto, uno dice, o no, le cipolle, quando eravamo in Egitto, ed eravamo seduti intorno ai calderoni che volevano, c'era dentro quelle verme incostanti, e le cipolle, questo è l'Egitto. Non pensavo che lo schiavo, no, la cipolle è bianco stato. Perché la verità è questa. Che fa la storia sulle cipolle di accostare. Ma davvero? Questi qui rimpiangevano queste cose qui, che mangiavano abbastanza, che non impedissero. È vero che eravamo schiavi, però sono per me. Siamo la nostra casa, adesso siamo qui in mezzo al deserto, non c'è l'acqua, guarda che posto. Insomma, no al pitur, agli gagliani. Però gli aveva promesso la terra promessa, non gli aveva promesso pizze e fichi, gli aveva promesso la terra promessa, la terra dove scorre il latte e miele, una bugia, però la terra dove scorre il latte e miele. Quello gli aveva promesso, come dice? Ma ragazzi, vero che ci ha messo 40 anni a fare un viaggio di solito fai 15 giorni, ma gli aveva messo un po' così. Però, perché noi non facciamo, quando io penso queste cose qui, poi non fai conto con la gente che mangia tutti i giorni, che per la verità il suo desiderio più alto nella vita è quello di non essere rotto le scatole. Ma dai, non è adesso quella parte. Ma è vero, ma che molti dici, guarda, facci quello che vuoi, ma io la voglio bene, facci quello che vuoi. Non mi credi, ma la prego. Qualcuno dice, non so, magari sono voce di corridoio, che la venuta di Cristo 2000 anni fa è stata voluta, dovuta a far fare un salto di coscienza a voi. Quindi dal passaggio del Vecchio Testamento, quindi 10 comandamenti, Mosè, le regole, le leggi, a fare un cambio di coscienza per andare oltre queste cose. Assolutamente sì. Allora ci sarà pure questo cambio di coscienza, no? Sarà tutto molto secco di lato. Allora, Gesù Cristo è stato in Palestina per 30 anni. 33, cioè secondo me, meglio. Uno dice per 3. Va bene. 30 anni in alto per fare il falegname della Torah, 3 anni di vita pubblica. Adesso mi devi dire sotto la croce del Signore Gesù chi ce l'ha. C'è la sua mamma, ma la mamma non conta. C'è lì le amiche della mamma, e invece questo è contro, perché si sta a dire, guarda tuo figlio, e ti dice un figlio a che fine fai, se ti dice che hai fatto. E c'è lì San Giovanni, che era un fiore. Questi sono i convertiti. Cioè il salto di coscienza, devi vederlo in 3 anni, no? Ma anche ora spostiamolo in 2000, dai. Spostiamolo in 2000 anni, io sono d'accordo, no, per voi non vuoi essere pessimisti, che il salto di coscienza c'è, è possibile, però vuoi mettere che c'è anche io la riconosco anche dentro di me, per esempio, non voler essere sulle scatole del cipolle d'Egitto, per poter andare a camminare insieme ai greci, che in fondo mangio tutti i giorni, nessuno ti ripara, vabbè ti pesti, ti tosano un pochino, però non ho mica quello il problema, superato lo shock, via. Perché quella cosa qui, con tutto il rispetto, magari te non ce l'hai questa cosa, io il peccato originale ce l'ho, adesso sono la Madonna, e non ce l'hai, però io il peccato originale ce l'ho e mi porto dentro una serie di pesantezze e di debolezze, che di fronte a queste cose qui mi fanno sentire fratello di un sacco di gente. Che ti dice, Don Annino, ma va bene tutto, però fai bene, come mi va. Cioè, fai bravo, cioè, io ti ascolto più volentieri, non chiedermi di vivere in un altro modo, perché non ho voglia, perché non ce la faccio, perché è troppo difficile. Fai bravo, mi sto giocando addosso. Mi stai giocando addosso. Il problema, cioè, perché noi non possiamo fare i conti con questa cosa, noi non vogliamo con la gente normale, quelli che magari il salto di qualità non l'hanno fatto, fanno solo salto di qualità, vabbè, però, cioè, io penso che questo discorso, siccome io ci ho pensato, guarda, su questa roba tutto ci ho pensato tanto, per me, proprio sincero, io ci ho pensato parecchio, non voglio fare moralista, non me ne frega niente. Non me ne frega niente la coscienza degli altri. Io dico, per me, io penso che questo discorso, il primo gesto che non violento che esige è la pazienza. Ed è il sapere attendere. Con se stessi bisogna essere un po' impazienti e attendere un po' meno, perché sennò ti si dorme in testa. Però. Mi ricordo che a Paolo Freire gli hanno fatto un'intervista e gli hanno chiesto che cosa pensava che avrebbero fatto quelli che lui educava. E io lui gli ha risposto, io gli dico per essere libero, non può fare quello che dico io. Dice, e se poi non vorranno fare la rivoluzione? Non lo fanno. Beh, non è facile. Dirlo non è, pensarlo di dentro è molto difficile. Io penso che è questo, e secondo me questa cosa si può fare, questa attesa può essere vissuta solo con una coscienza condivisa. Da solo non ce la fai. Da solo ti metti a rimpiangere il cipolle. Che ti piacevano anche a te, mi è costato una volta. È lì una coscienza condivisa, che non è la guardiana della tua coscienza, ma che è una rete che sostiene. Sui numeri piccoli, sulle comunità piccole. Con una posso davvero condividere un canale di crescita. Perché con 5.000 persone non posso condividere un canale di crescita. Neanche voi. Però bisogna provare a pensare, beh, a parte il primo che mi provare per la flessibilità. Del sindacato, ma il problema secondo me è questa piccolezza che è il grano di seme, che è il grano sinapsis di Gesù nel Vangelo, e la flessibilità, perché secondo me se no non ci siamo. Ma scusa, io ritorno alla flessibilità di prima. Ma è una flessibilità della coscienza, non dell'individuo. È una flessibilità della comunità. E questa comunità che condivide questa crescita, ma che non lega chi cresce nella comunità. Scusa, donna, forse tu non sai. I kibbutz, che sembra che siano nati da, da seguaci di Tostone. Sì, così, sì. Non in giro col mitra. Ma lascia perdere adesso, si parla di quando sono nati. Andavano già in giro. Andavano in giro col mitra così. C'era una nostra debolezza. No, e prima che sono nati in kibbutz, questo è vero. Perché mi sembra. Ma sono stati assorbiti. Perché qua mi sembra una realtà piccola. Sì, il problema è che tu sei in uno stato che è in guerra con tutto e con tutto. E dove viene fuori una delle cose, almeno nel sentito di traditore, una delle cose che piuttosto condanna con più fermezza che il patrio fisico. La sacra terra dei padri. Poi resiste. Se no sono tradotto. Se non sparisci, se non ti fanno sparire quelli che gli avversari, ti fanno sparire gli amici. Perché sei pericoloso. Sei molto più pericoloso dei nemici, che creano compattezza. Tu invece no. Mi sono chiamati di chi non sta. Prima non potevo resistere. Non so se ce ne sono ancora, ma penso. Allora so quale delle cose penso. Di fatto la Palestina, Israele è uno stato militare, che non penso lasci funzionare non violenza. Anche se c'è un momento non volente. E non da poco. Un po' mal visto. Però c'è. Che si chiama Tolstoi o no, non lo so, però c'è. Nota che è straordinario come anche noi i movimenti non violenti facciano meno. Vengono cambi o altri. E però non dà speranza questo. Dottore sì, dà la speranza più grande. Sì, però non dà speranza collettiva se non in un tempo infinito. No, non dà neanche la speranza. Voi dice, facciamo crescere le coscienze di cosa. Appunto. Io sono d'accordo con te. Gandhi la pensava diversamente, non tanto ma diversamente, soprattutto i suoi seguaci la pensano diversamente. L'India è un paese che è nato da un movimento non violento che ha la bomba atomica. Questo è il progresso? È il cambiamento degli altri? È quello che dà speranza sui tempi brevi? Ma appunto non dà speranza. Stalin è il frutto della speranza dei tempi. Per alcuni versi anche Hitler, la Comune di Parigi. Qualsiasi governo democratico. Assolutamente. Con Tolstoi non mettere una forma di governo. No, perché se l'ho detto stasera, poi in 88, un bellissimo periodo che se lo pensiamo, io l'ho pensato applicato alla Repubblica Italiana nel sì, ed entrambi i fenomeni di dispotismo. Il dispotismo delle autorità che nulla può frenare e la consapevolezza delle illegalità di un'autorità simile aumentando di giorno ogni ora sono giunte negli ultimi tempi al massimo grado. E poi, no, più avanti, dispotismo, scusate, ma quale dispotismo? Mentre noi abbiamo le due sezioni del Parlamento, gli schieramenti, i partiti, le correnti parlamentari, le inchieste, le commissioni, il primo ministro, la politica di corridoio, tutto come si deve, cioè. È applicabile benissimo a qualsiasi certo, democrazia, non certo, solo l'Italia. Certo. Teniamo presente che Tolstoi dà un giudizio negativo su ogni e qualunque forma di governo. Per lui il governo democratico non è meno violento di un governo autoritario. Anche perché c'è il monopolio della violenza. Esatto, c'è il monopolio della violenza, c'è l'esercito, la polizia, la repressione, tutte queste cose. E se vogliamo usare i termini della democrazia. L'impero, al quale Giovanni di Patmos dice che i cristiani devono sottrarsi, la prima cosa che fa è proporre se stesso come verità ultima, al posto di Dio. democrazia il concetto di verità ultima, non superabile, non modificabile, il massimo della vita. Questa è la risoluzione dell'impero. Noi abbiamo un concetto di democrazia che è diventato sclerotico nel tempo. Adesso io raccolgo che ho voluto fare alcune cose su, alcune conversazioni, una delle cui abbiamo conversato esattamente sulla crisi della democrazia di rappresentanza. La democrazia di rappresentanza è andata in crisi il giorno dopo che l'hanno fatta. Perché il potere, secondo Tolstoj, è male di per sé. E chi ce l'ha si corrompe, chiunque. Non si corrompe perché prende i soldi, ma perché si corrompe dentro. Questa è la verità. Io di questo sono profondamente convinto. E sono convinto che noi abbiamo bisogno di un grosso ripensamento dell'idea di democrazia, che adesso non è un'idea, ma un mito. Adesso mi devi spiegare perché 100 che dicono una cosa hanno più ragione di 10 che ne dicono un'altra. Che normalmente è il contrario. Sono quelli che sono, sono i 10 che hanno ragione, e 100 che dicono cazzate. Ma in democrazia no. Spiegami perché. Perché il rapporto, nella democrazia di questo tipo, il rapporto tra minoranza e maggioranza è un rapporto violento. Un parlamentare a metà della sua cosa di rappresentanza può cambiare schieramento. Rappresenta chi? Mia sorella. Che non c'è. Non so. A metà della cosa si fa un nuovo raggruppamento politico. E chi l'ha votato? Questa è la democrazia. Se leggi il governo una parte sono fascisti, se leggi l'altra sono comunisti, da qua? Cioè devo pensare che il 51% degli italiani è fascista. Ti faccio un avete presente quel tipo di cadesso di Palermo, come si chiama, l'ex sindaco di Palermo? Orlando, il sindaco prima di lui è stato eletto con il 72% dei voti. E lui ha detto, ma qui l'hanno votato i mafiosi. Lui è stato eletto con il 76%. Secondo te i mafiosi chi hanno votato? Ho pensato anch'io questa. Per dire che avevano votato un mafioso. Ma io questo che a me mi fa diventare matto, perché i numeri non si possono discutere. Se il 72% l'hanno votato un mafioso e uno lo vota il 76%, gli stessi mafiosi hanno votato lui. Se mette perché? Perché era un'anima bella. Fermiamoci qui, per un po' di questo. Ma invece la cosa che dobbiamo fare per la prossima volta lo faremo insieme, a parte continuare questa riflessione, secondo me, che non è una cosa che... Beh, a parte una riflessione sulla flessibilità, che a mio parere è interessante. No, c'è quella che è tenuto fuori di più, che è cambiando se stessi cambiamo la mente. Ecco, secondo me, cambiando se stessi cambiamo il mondo, cambiamo noi stessi. E secondo me merita una riflessione un po' più approfondita della semplice enunciazione. Perché la semplice enunciazione è una logica. Ma a meno che non ci mettiamo in tanti a cambiare noi stessi. Allora secondo me bisogna riflettersi un pochino e vedere un po' insieme questa cosa qui così. C'è poi da vedere che per me è fondamentale, da vedere insieme, provare a cambiare qualche metodo, la non partecipazione. Questa mi interessa, però, sì. Però dobbiamo prima metterci d'accordo su due o tre anni così. Perché ho capito che ha poco senso votarsi per fare del bene, è quasi l'uso. È molto forse più, apparentemente più facile impegnarsi a non fare del male. No, che questo è facilissimo. Non è facile. Beh, l'altra sera ho sentito un signore in una conferenza che diceva, Vabbè, se metti sui pantaloni così, ma anche se ne hai fatti i bambini in Corea, se bevi la tazza di cioccolato, mi stai poi mica lì a pensare che ai contadini dell'Ecuador che sono sfruttati, bevi il tuo cioccolato, non fanno niente. Volevo baciare. Aspetta, aspetta. Sta appoggiando. Aspetta, lei, però, finisce. Oh! Sì, è passato velocemente quel tempo qua. Non avevo solo estremamente simpatico. No, aspetta un attimo, non guardo. Guarda, mi stai squadrando. Fammi stare qui. Ma quanto la fate? Mi stai squadrando. Ma no, volevo capire se sì? La coscienza è com'è questo. Individuale che ognuno ha. Se riesce veramente a esprimerle a vita, viene in qualche modo soppressa e schiacciata. Perché io non sono così convinto che io penso, cioè noi riusciamo veramente a vivere, a esprimere, possiamo provarci. Provarci, ma noi ci proviamo a vivere veramente. Sono lo stesso, tu ci provi. È che la domanda è personale. No, nel senso che la domanda personale è anche collettiva, nel senso che. Io ogni tanto ci provo, non ci riesco benissimo, ma ci provo. Cosa devo dire? Non posso dirti di più. No, io pensavo che la coscienza fosse in qualche modo ingabbiata, condizionata, bloccata. La coscienza fa parte della tua storia. Porta dietro tutto quello che sei. La coscienza non è un'entità astratta che abita dentro di te, come l'anima o il fanciullo. Non è io che sento così, no? Diciamo un discorso qua, essere superiore, superiore. No, non sto dicendo superiore, stavo pensando a lei. No, è vero, tranquillo. La coscienza, la tua coscienza sei tu. Con i tuoi detti ti vive che verrà. Che alcune volte riescono, altre volte no. Che alcune volte fai la nana, altre volte sei sveglio. Però continui a camminare. Questa cosa qui mi è come chiesa, ci vedo tutto su. Non mi frega. Io non sento più da questo finale, forse è come. Va bene signori, Dio vi renda buona. Il compito della prossima volta non ce l'ho appena finito di dare. Ah, sono grande. Va bene?